Ma scusi, lei vuole guarire ed essere cosciente? Sì. Vuole essere consapevole della realtà che la circonda? Sì. E se la sente di affrontare il mondo così come la si presenta, senza palliativi? Sì. E allora prenda questa... pillola rossa. Pillola rossa. Non sono io a non essere credibile, non sono io a dovermi giustificare. Voi rinchiudete la gente, la fate ammattire nelle fabbriche, negli ospedali, nelle caserme. Io creo sogni, voi li uccidete. Io parlo sboccato, voi nemmeno parlate la nostra lingua. Ci lasciate ai bordi, ci fate vedere donne che non potremmo avere, posti dove non potremmo entrare, cose che non potremmo comprare. Non siete diversi da noi, ladri e puttane vestiti bene. Voi ci rubate il tempo, che è l'unica cosa che abbiamo. Ci insegnate a tradirci e a non fidarci più l'uno dell'altro. Voi spacciate certe droghe nelle farmacie e ci arrestate se ne vendiamo altre. E noi ve lo lasciamo fare tutto questo, perché nella vita non c'è mai scelta tranne che in certi campi, ma mai in quelli importanti. Ma io non voglio essere un prodotto del mio ambiente. Voglio che il mio ambiente sia un mio prodotto. Quinta puntata? Quinta puntata, pillola rossa. Pillola rossa, quinta puntata. E direi che, non lo so, dalle volte in poi, cioè, possiamo dire 20 e 45. Sì, eh? Ma è sempre più difficile. Perché... un macello, litighiamo con i microfoni. Perché è un ritardo cronico, quindi 20:45. 20:45 dobbiamo dire? Sì, secondo me è 20:45. E i volumi come sono? Noi non sappiamo niente, qui siamo allo sbaraglio, allo sbrando, no, allo sbrando libero. Quinta... ma si va avanti, dai. Si va avanti, quinta puntata, pillola rossa, programma di musica in italiano per veicolare il messaggio culturale e comprendere, capire e affrontare la realtà. La realtà. La realtà. La realtà. Falla sentire un po' di realtà. Facciamo sentire un po' di realtà. Sì. Via. No. Prendiamo le caramelle? Sì, ok. E mi dà anche queste caramelle al mentolo? Queste? Ecco. Quanto costano? Un euro. Me le mette 90 centesimi. Ma che dici? Lascia fare. Eccole, i 10 centesimi di resto. Ma ti ha fatto davvero lo sconto? Ma come hai fatto? Semplice, con Scontarello. Scontarello, e cos'è? Scontarello è la nuova card che ti permette di avere sconti sulle minime cose per le quali prima era impossibile. Caramelle, puntine da disegno, buste e fogli per lettera, chiodi, grappette e mille altri oggetti dai 10 centesimi fino ai 3 euro. E come faccio ad attivare Scontarello? Con una semplice telefonata al numero verde 800 0602. Chiami, lasci i tuoi dati e nel giro di una settimana ti arriverà la card. Dai, e quanto costa? Nulla, paghi solamente 50 euro al mese, che ti saranno automaticamente prelevati dal tuo conto corrente bancario. Corre ad attivarla! Scontarello, perché non approfittarne? Buongiorno, mi dà due viti come queste, per favore? Eccole, sono 20 centesimi. E con questa? Oh, Scontarello, in tal caso sono 16 centesimi. Passa anche tu a Scontarello. Scusate, ma i diritti di palinsesto ci obbligano ad assolvere certi compiti. Ci hanno detto pubblicità e noi abbiamo eseguito. Rispettiamo il palinsesto, gli occhiani. Palazzinaro amaro, sei un palazzinaro baro, per tutto il male fatto a Roma adesso paghi caro, al funerale del tuo centro commerciale, è bellissimo vedere il nostro lago naturale. Scava, scava, scava, nella notte brava, hai trovato l'acqua bullicante, 10.000 piante, l'acqua con le bollicine che non ha mai fine, scorre sotto le colline come queste rime. Scava, scava, scava, e non se l'aspettava, un lago naturale d'acqua minerale, un miracolo nella metropoli meravigliosa. Lì c'era una fabbrica di finta seta, la viscosa, c'era il capitalismo, un'area gigantesca, ci lavoravano le madri, padri, ogni scolaresca, ognuno che pensava, morte tua, vita mia, poi fallito hanno

salita, rapporti chiusi, ora ma è finita. Mi fa male la testa, non mi interessa. Mi fa male la testa, non mi interessa. Malessere, malessere, malessere, prenditi cura di me. Contemporanei da Bruxelles. È un amore debole, che non ha detto loro. È un amore debole, da Oda. Ho solo un'assenza di amore. Non riesco a decidere. Tardi mi sono alzata, poco dopo mezzogiorno. Gusto strano nella bocca, non so da dove venga. Oh sì, me lo ricordo, abbiamo avuto un oh, altro grande litigio, sempre la stessa cosa. Tu dai la colpa a me, ascolto in silenzio, mi chiedi spiegazioni che non posso darti. Sulla mancanza di segnali emotivi che non mi piacciono, l'inizio della storia. Non puoi rassicurarti, non c'è risposta giusta, non riesco a rispettarla senza mentirti proprio. Ma la data di scadenza si avvicina sempre più, non riesco a rispettarla. D'ora via, d'uscita. È un amore debole, è un amore debole, o è solo un'assenza di amore? Devo scegliere. Volevo sfumare, poi in realtà si è sfumata da sola, quindi vabbè, pezzo diciamo molto contemporaneo. Easy, no? Sì, contemporaneo, abbiamo giocato la carta del contemporaneo. Novità sull'ambito supermercati, nelle ultime notizie, quello che parlavamo settimana scorsa degli scioperi. Sì. Allora, qualcuno, non si sa se è tirato indietro la Federdistribuzione, un grosso nome commerciale, ora si deve capire se è tutta una manovra di farsi belli, no? Perché il nome è molto grosso, catena tedesca per intenderci. E invece leggevo proprio oggi che invece dalla Liguria hanno rinnovato uno sciopero ancora per 26 aprile, stesso concetto, stessi temi, e bisogna rinnovare il contratto e non alle condizioni di miseria che propongono capi, diciamo. Stiamo parlando dello sfruttamento all'interno della grande distribuzione? La GDO. Stiamo parlando della schiavitù all'interno della grande distribuzione, giusto per capire qual è il tema. Sì, se vuoi riassumere in maniera barbara è così. Barbara e non solo. Barbara e Annarella. A proposito di Annarelle, andiamo con un grande classico. Grande classico. Grande classico riscritto nell'82, in realtà. Sono curioso perché non lo conosco neanch'io, quindi. Prodotto da Ricky Gianco e Gianfranco Maffredi, e poi con cinque cantanti dell'epoca che spaccavano. Vediamo se la conosco. Persone anziane. Saggio. Calde ballerine, cocaina e whisky liscio. Mogadiscio. In abisso nell'abisso di una nera volta. Mogadiscio. Lei come una pallottola mi colpirà di striscio. Mogadiscio. Una somala mi pelaga nel dedalo della città. Cammelli sta impugnando lo scudiscio. Mogadiscio. Se l'istinto non mi inganna, quella donna sta nascosta là. Occhio mando che mi guardo la furtiva al di là di un muso. Mollo un dollaro al guardiano e finalmente la raggiungerò. Allolli. Bravo. Allora, volevamo fare un piccolo accenno al 5-6-7 aprile passati che si è tenuto a Bologna, Camere d'Aria, tipo in questo caso la terza convegno nazionale sulle radio libere. E noi siamo andati lì un po' turisticamente parlando, devo dire. Ci siamo intrufolati, sì. Ci siamo intrufolati da bravi turisti tropi. E cosa? Sì, dove pensavamo che si parlasse c'era un linguaggio tecnico, e dove pensavamo ci fosse il linguaggio tecnico si parlava. Però appunto da turisti è stato in ogni caso molto bello, bella l'atmosfera, bella l'aria. È successo quest'anno, succederà il prossimo, chi lo sa? Dovevate succederà venire anche sto il giro. Prossimo, sì, chi sì. Lo sa? Dove non si sa, però no. Da qualche parte succederà. Ma voglio andare invece, rimanendo sui festival e sui convegni, c'era una cosa abbastanza interessante, mi sembra, sì, carissimo, sì, sì, Belluno. Hai ragione, sì, stavo addocchiando un po' cosa c'era in giro e mi è cascato l'occhio su questo evento, diciamo, abbastanza inusuale. Sesto Festival del Cinema Assurdo. Mica male il nome. Io non so niente ovviamente di tutto ciò, però mi ha richiamato un po' l'attenzione il titolo. È il sesto, è sabato, è 13 aprile alle 20:30, è free entry, quindi non si paga, a Cinisello Balsamo, Milano Nord, all'Auditorium Pertini. Voilà. Piazza Confalonieri 3, vi do anche l'indirizzo. Dico, io dico, cioè, così. Penso che sia una biblioteca, un circolo culturale, non lo so, però insomma è da 6 anni che vanno avanti a selezionare cose assurde. Allora, più che molto più preciso che il convegno sulle radio libere, che forse si terranno prossimo si sa dove, l'appuntamento di questo festival invece era molto preciso. Sì, molto, molto interessante comunque il convegno, c'è un sacco di radio, un sacco di città, un sacco di gente. Bella anche l'interazione, un po' la progettualità. Noi si era suggerito ai ragazzi che poi lavoravano lì col computer e montava gli spot di creare un contenitore nazionale dove ognuno infilasse i propri spottini e poi ognuno andasse a ripescare. Io poi non so se noi siamo evasi prima, se questa notizia è passata. Beh, si buttano un po' di idee e poi insomma le idee stanno lì un po' a macerare, magari comunque qualcosa viene fuori poi. Tutto fermenta. Tutto fermenta. Comunque, abbiamo preso un po' di spunti che svilupperemo prossimamente. Salutiamo Onde Riflesse. Onde Riflesse ai ragazzi di Camera d'Aria. Vado? Vadi. Allora vado, Vadi col Festival del Cinema. Tolgo questa. Questa qui è un'autoproduzione di sottofondo. Un'autoproduzione. Viene da Boffaland. Abbiamo cambiato il tappeto. Abbiamo deciso con questo tappeto. Dai treni all'alba siamo passati a Boffaland. Sarà perché siamo tornati da Bologna e c'era qua a Zamb, da dove siamo in diretta, c'era la festa con un po' di Tunes. Un pochino. Forse un pochino. Quello. Noi restiamo a tema. Restiamo a tema. Adesso togliamo il tema e mandiamo il cinema. Via col vento, il vento della steppa, balla con i muri, il piccolo cosacco, vende paccottaglia dell'Armata Rossa, lavora conto terzi per i piccoli boss, proposta indecente, attrazione fatale, le porno casellanti al servizio di frontiera, le liaison dangereux, la scelta di Sophie, gola profonda, ora l'anal non stop. Mix, fronte del porto, profondo rosso, occhio selvaggio, corazza da potionchi, senza via d'uscita, gioventù bruciata, la maglia del soldato, soldato blu. A qualcuno piace caldo il tè nel deserto, Toto d'Arabia, sospiri a Casablanca, Toto le moto, 7 chili in 7 giorni, Indiana assassino sull'Oriente Express, sulla testa, turista per caso, nella tempesta, l'ultimo imperatore, la contessa di Hong Kong, la Cina è vicina, tanto che gas, sentendo le decadenze. Di cristallo fino all'ultimo respiro, San Michele aveva un gallo, Roma città aperta, italiani, brava gente, pane, amore, fantasia, amici miei, via col vento, il vento della steppa, palla con i muri, il piccolo cosacco, vende armamenti atomici, a corte medio raggio, ha già imparato tanto, pieno di volontà. Si è fatta i ricci, e io questo già l'ho notato. Ci sono dei guai, e allora si crede di risolvere tutto con i ricci. E invece no, Una svolta già c'è stata, in peggio. I problemi si sono accumulati e non possono essere risolti con i ricci. Violentami, violentami, piccolo. Violentami, violentami, sul metro. Accoppiata punk, un ex punk e un'altra ex punk, CSI con Celluloide, quindi la nuova banda di Ferretti dopo CCP e Candeggina Gang con Violentami. Siamo la banda di Gio Squillo, siamo i primi anni 80, 81, sì. E invece qui finiamo in Sicilia direttamente, e questo qui è un dialetto antico che non è siciliano, c'è stata una ricerca filologica, non so come filologica, si dice. Filologica, hanno ricostruito un dialetto che non si usava più, e questo ragazzo arcaico, sì, bravo, un dialetto arcaico, e adesso non sappiamo se lasciarvelo tutto, però sicuramente ve lo mandiamo. Questo ragazzo si chiama Triste MC, dalla Sicilia, dialetto dalla Sicilia, sentiamolo, dialetto antico e tiempo antichi è il titolo, e tiempo antichi, tiempo antichi è il titolo, ma il dialetto è proprio una cosa che non esiste più. Che c'era un sole forte come Bavaria di Zafara, che arrivo ogni bagnetta fra ricciara avosa, fino a più spinduto fu ni manna, racco usciavo rizzaga e la sbumicava e sta ciamma ma camora si tutta di uscire lo canni con mua ghia virina gia biarinia ghia canna nuai ba e na duva morire a legna senza guai da vecchista niegia roba usciato come roba ma un ne me voglio ir a tienere questi riscussi poco tienere amo ciù bienere rincia l'angussi come rincia scoccia rame miennole la bocca a bocca non zucchero e spingole ricchezze con po' spiedere un paro di piccioli ma in trovatura risientere mosso mi rotta lingua cannaro assaggia tempo le cassiemola oh balataro e riprimuna rompievano i balate e ghisavano balatuna parlare la parlata antica e perico spica io stesso mi ci avviesso non ci posso fazzo fatica picchisso va realo su chi un mazzo di paroli provo lazzo cosuto con feline cannavazzo picchi una mano si può parlare rossi ce li hanno viecchio a meglio arienza taruno dialetto il siesso ma fatta è caghisto non manca un cinne chiuso viecchio sacchianca come un lietto e narriso cocchi miei cos sbannuto affunnato una tierra come un tabuto rari chi riparo alla raccama aiuto ma cassupra zocca summa un chianto terato ben a dire cocchi cruazza le baghi abbandonato parlamo piccadozza e proviebbe i parole viecchio oramai si va mucciano come sia e te lontano rivocchi di gente picchia ligeri sta suggetando e risce sai va solo so così ebbe calma via e della laima che ta canciamo con cantaro chino chini lanna a nuorsa comaica comanna spaica e sabanna callai vana vita chiù biede e saballa a lingua ramama e da nanna spaida la cammaiba fa fetto rissata petitta e sarda scuoida tilla piglia e chi è calagnone sparagni ciri biede raccanse ragione perché ci interessa il tuo popolo l'ignorante il popolo non capisce niente l'ignorante che va sempre a testa dice sempre sì l'ignorante si fa pensare mi voleva dire che c'è gente ancora che vuole parlare italiano ci pare male a parlare siciliano si vergognano ci pare che è un distretto quando parlano siciliano parrarissa maniera i capucci una ridda fuori è misero per prima cosa non savo che ci per la scuola cammuola a picca picco ogni parola a zicca non soccorra ricche una lingua nuova i gente era così a cominciare a così riseriente con fare sgridare sidere siciliano si chi sa ruogna signo potente che a dignità diventò solo parlare italiano e non sa niente sate sate risoluzione a tutte bande fo curande ranne risapire rimano si baggi foi ti minnitta rimerude senza lizza il tricolore ma una nella sala gritta e n'accupare i munnizza tinciuta ribidizza che rizza che abbrazza e la zoppa si dallazza na ti essa vena zotta cazzano ogni tipi di essa e da fuggi vito mitra che avuce l'uscia ti impiesta fare un quaggio chi giura chi li si rieno ruci sugato col cato mura muro lato ricruci dall'anno un amo dopo ora avanza e nado mi scieme quali si rieno su quaggio favo si vilie non arrucia l'occhia e na brucia so caviemo sotto magici riperuocchi tele besure è un uomo risso chiacco chiacco cannaca sulle cianche e uscire via da fuca paro paro a vaca l'usanza la parlata e cupipitia su fa per mia sta scatola guagiata e menzi reclami cuissa a lingua si va cuica sotto ti imparo tiempo e non c'è nudo che va cieca e se due piense che tu parla ancora lingua originale danno a rospiglia te catando nero danno buttita o scrisse la nostra madrelingua non riesta sulla nota bascia che sempre sa ghimma o frate ammato la tensai con pulicchia era ronze siciliana con citi e pezzo di un arrisocchio niente, il suo sangue un nostro caro un parra manco più, un paracquaro ci sono le dita ancora che vogliono parlare italiano con noi altri invece abbiamo una lingua più ricca dell'italiano una roba una roba povere ragazze accattatevi un grande tempo. Comuni e i reati politici sempre più si assottigliano le distinzioni che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. Ritornerò rimosso, non posso farci niente perché me lo sento addosso. Senza avversario non c'è competizione, senza speranze muore la rivoluzione. Nikita Khrushchev ribadera la scarpa, l'attore in H4 si difende come può. I missili alla lana, gli oppositori in barca, Yuri Gagarin che ci guarda dalla blu. Chiudi gli occhi, apparirà dietro la cortina. Stalingrado la città, tutto come prima. Ci vediamo a Gorky Park, dice un poster nel metro. Non c'è alcuna verità senza disciplina. Guardate questo fiume di folla. Questo fiume di folla che passa sotto gli occhi dei Vobos, la famigerata polizia del popolo che tante volte ha sparato per impedire l'attraversamento del muro. Si è aperto un varco, si allentano i controlli. Non ho difese valide per chiudere i cancelli. La mente mescola senza nessun rispetto. Passato e trapassato, presente ed imperfetto. Ciocchi di guerra, tensioni e strategie. Sul ponte Glina che lo scambio delle spie. Non c'ero ancora, ma se ci fossi stato, sarei andato a Berlino cavalcando un carro armato. Chiudi gli occhi, apparirà dietro la cortina. Stalingrado la città, tutto come prima. Ci vediamo a Gorky Park, dice un poster nel metro. Non c'è alcuna verità senza disciplina. Flaco Punks con Gorky. Sì, ci sono sempre dei problemi tecnici che si succedono a noi, cioè è così. Un sacco, non è che se mi sente il microfono. Pronto, Nero, ci sei? Nero, pronto, qui Bianco. E comunque adesso abbiamo risolto qualcosa. Gorky di Flaco Punks, ex Pancreas, se si sente un po' il... lo stile? Lo stile, sì, ha fatto... L'atteggiamento, si sente l'atteggiamento? Vabbè, penso che sia lui che scriveva anche un po' i pezzi, quindi la matrice è quella. La matriciana, qui c'è saltato tutto e quindi stiamo improvvisando. La scaletta che con tanto sudore della nostra fronte e palpebre ha messo giù non corrisponde più a nulla e quindi adesso andiamo non a braccio, a gomito. Ops, non volevo dire gomito. A gomito. Mi piace. Vai di gomito. Secondo me, ragazzi, questa roba qua in Italia se ci fosse in questo periodo non sarebbe permessa. Perché? Come, perché col fascismo tutte le cose buone sono proibite. Secondo te l'imperatore la rende lecita questa? Chi? 90? Qual è 90? Imperatore? Ergetelo russo! Agli ordini! Allora niente turni di guardia effettivi, Savoia di Europa! Non sono assolutamente d'accordo con l'atteggiamento lassista e rilassato che si è diffuso fra voi. Essendo un compagno non posso non andare con la corrente, cioè non posso schierarmi contro il volere della maggioranza, diciamo.

Vabbè, Arcibellezza, questa è una band relativamente nuova di gente che suonava prima e suona anche dopo e suona anche adesso. Hanno fatto questo ensemble, sono i Ponte del Diavolo. Siamo sul dummeggiante. Ok. Dummeggiante, una decina di euro, secondo me critica concorda sulla decina di euro o... sul valore anche qualche pubblico a quanto pare che ha già visto i Concorda. Io andrò a vederli per appurare al giorno se valgono meno. 10 euro è, come dire, abbordabile, diciamo, abbordabile 10 euro dello sprofondo nazionale, abbordabile. Poi bisogna vedere la birra quanto costa, però vabbè. Sentiamoli, questo è il singolo dell'unico album sostanzialmente, Demone, Ponte del Diavolo. Yeah. Momento di lettura. Vadi, dottore. Una parolina sulla differenza tra il tempo celestiale e quello terrestre. Anche nell'eternità il tempo passa, solo più lento, molto più lento. Un giorno in cielo equivale pressappoco a 57 anni sulla Terra. 4,6 milioni di anni fa, quando Dio si è preso la sua prima vacanza, la sua unica vacanza fino alla settimana scorsa, eravamo ancora al Leone Adeano, non c'era ossigeno e la Terra era una specie di palla liquefatta. Quando lui si è preso la seconda settimana di ferie, sulla Terra correva l'anno 1609 d.C., il culmine del Rinascimento, che Dio si era goduto una cifra. Copernico, Michelangelo, Leonardo da Vinci, ragazzi, che pacchia! Quando se n'è andato con la cassetta da pesca sotto braccio e il cappello da pescatore allegramente sulle 23, su un palco di Londra si recitava il Re Lear, mentre dall'altra parte della città Bacone lavorava al De Sapienza Veterum Liber. E il greco stava dipingendo l'apertura del Quinto Sigillo, Galileo sbirciava in un prototipo di telescopio, lo sguardo che si posava per la prima volta sui 4 satelliti di Giove, Monteverdi aveva da poco finito di comporre l'Orfeo, il momento ideale per andarsene a pescare, aveva pensato Dio. Al suo ritorno dalle remote campagne del paradiso erano passati quasi 400 anni. Dio era fresco come una rosa e carico di trote. Sulla Terra correva l'anno 2011. Come sappiamo, ne erano successe di cose in quei 4 secoli. Dio è un lettore veloce, anzi velocissimo, è capace di assimilare migliaia di documenti in contemporanea. Impara subito un mucchio di geografia. Auschwitz, Buchenwald, Bergen-Belsen, Guantanamo, Belfast, Cambogia, Vietnam, le Fiandre, Ypres, Nagasaki, Hiroshima, Ruanda, Bosnia. Di tanto in tanto Janine, Fabiano e Seba fanno un salto sulla sedia quando sentono le sue grida soffocate. Io, vieni qua, forza, vieni! Io prendo Gesù per un orecchio. Ai ai ai ai ai ai ai! E lo trascina fino all'enorme lavagna bianca, dove lui ha scritto diversi temi all'ordine del giorno per la riunione. Usano la foresta pluviale come una merdosissima discarica. C'è un buco cazzo, nello strato di ozono ed è grande come il mio uccello. Gli oceani, quei pochi pesci rimasti, seguono una dieta a base di stronzi, petrolio e vecchi frigoriferi. Dio lo molla e Gesù arretra incespicando, massacciandosi l'orecchio. Ma papà, Dio alza un dito minaccioso, Gesù ammutolisce. E queste sono solo lagne d'ambientalisti. Sul piano morale, invece, hai una vaga idea di quanto è arrivata in basso l'etica del genere umano? In confronto un congresso di stupratori e usurai e un simposio di santarellini. Papà, anch'io sono appena tornato. Non ha tutti i torti, più o meno da 2000 anni, vale a dire un mesetto in termini celestiali. Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. Allora, il libro che è stato estratto una parte prima era John Niven, A volte ritorno. E invece noi ci siamo sentiti Ginevra Di Marco con Leggera. Leggeresti mai il tuo commercialista ai binari mentre arriva il treno? No. Spalmeresti di miele la testa di tua sorella dopo averla interrata fino al collo in prossimità di un covo di formiche rosse? No. Leggeresti mai ad un razzo in partenza il tuo benzinaio? No. Scaricheresti mai un film da internet? A voglia, da mo che lo faccio. Scaricare un film da internet è reato. Ho detto che da mo che lo faccio, cioè sì. Cioè quello lo farei. Da mo c'è, lo fai. Lo faccio da tanto. Voglia, sì, a voglia. Che lo... quello non l'ho sentito. No, no, quello lo fai. Fuori quota. Italiani che cantano in inglese. Italiani che cantano in inglese, è vero. Storico metal, heavy metal, anni 80-90. Dette stesse. Band the Sabbath Begin. They will feast and now the gods. Welcome inside, save the church. Come and join the army. Here we wait for Lucifer. Cause tonight they will appear. In the form of babbling goats. He will give us that power. We'll be right back. È iniziato il sabato, quindi. È iniziato il sabato e forse è iniziato il sabato anche a Bologna, perché come turisti, vi dicevamo, siamo finiti al Parco Don Bosco. E questo parco dove c'è questa scuola sembra in uso all'interno di un parco dove non si capisce come le amministrazioni di tutto il pianeta qualsiasi traccia verde che trovano la vogliono abbattere per colare del cemento. In nome del PNRR, che è tipo il Partito Nazionale Fascista Repubblicano, cos'era? Sì, con le lettere roba cambiate. Era quella roba lì, però a distanza alle volte ritornano. Per soldi. E semplicemente per soldi. Per soldi, per soldi, ma sembra che non abbiano ancora capito che il secondo produttore di CO2 sulla faccia della Terra è proprio il cemento. No, non l'avranno capito, anche perché la scuola la vogliono abbattere, rifare, e fin qua insomma uno dice vabbè, è più che altro che vogliono rasare a zero tutti gli alberi. Sì, vogliono abbattere la scuola lì ma costruirla a fianco. E ci piace, a quelli del cemento ci piace il cemento che piace. Non era neanche messa così male, mi sembra, la scuola, così dall'esterno, adesso non lo so. A vista. Diciamo che i ragazzi di Bologna sono saliti sugli alberi e tra triclimber, cordaioli, funamboli hanno allestito delle case sugli alberi fantastiche. Parafitte, sì. Sì, un po' di tutti i tipi e insomma un bel salutone ai ragazzi che stanno lì dentro questo giardino, anche se Don Bosco. E un salutone al ragazzo che si è beccato 2-3 scariche di taser. Sì, un 18enne che è stato portato via la settimana scorsa in ambulanza perché tipo tre volanti, non mi ricordo se erano carambi o policemen, hanno abusato di un 18enne, hanno abusato con le armi, nel senso. E stava rubando un'asse di legno, penso. Ticut, però hanno sperimentato il taser su di lui ed è stato portato via in ambulanza, è stato di incoscienza. È che le assi valgono un sacco. È che siamo in Italia con la GL. Lì nel proposito siamo a Bologna e quindi ce la spiegheranno i bolognesi come funziona Bologna. Che dici? Sì, ci colleghiamo direttamente con quelli di Bologna. Nabat. Tempi nuovi, dico loro. E lo diceva negli anni 80, eh? 85. Oh, Che voglia di cioccolata. Peccato che sono a dieta. Beh, anch'io sono a dieta, ma alla cioccolata non rinuncio. E come fai? Mangio Diet Choco. La cioccolata senza grassi né zucchero. Diet Choco è la nuova cioccolata dietetica per chi non vuole rinunciare ai piaceri della vita. Diet Choco è senza latte, senza cacao, senza burro, senza zucchero, senza amidi, senza carboidrati, senza colesterolo. Tieni, assaggia. Ma non sa di niente. Perché non c'è niente. Diet Choco ha solo l'aspetto della cioccolata e contiene soltanto 10 calorie a barretta. Tieni, assaggia ancora. No, no, grazie. Mi risparmio volentieri anche queste 10 calorie. Dai, non fare complimenti. Ma non faccio complimenti. Appena finita la dieta mangerò un pezzetto di cioccolata vera. Ma intanto mangia questa. Ma te la mangi te, sta schifezza. Ma solo 10 calorie. No, grazie. Preferisco un finocchio. Ma questa è cioccolata. Che è questa? Ma mi fai incazzare, eh? Diet Choco, la cioccolata di chi vuole stare in forma. E se la richiami cioccolata ti gonfio. Quando un giudice punta il dito contro un povero fesso, nella mano stringe arte tre dita che indicano se stesso. A me alza un dito per essere diverso, me fa più fatica che sposta tutto l'universo. Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio, sto bene da solo. E il proverbio era sbagliato. So l'odore de tappo del vino che hanno rimannato indietro. So i galli sulle ginocchia di chi ha pregato tanto e non ha mai avuto. E ce l'ho fegato, aia. So come il vento, vado ondome va, vado ondome va, ma sto sempre qua. E brindo a chi è come me, al bar della rabbia, e più bevo e più sete mi viene, sti bicchieri sono pieni di sabbia. So il giro a vuoto dell'anello cascato al dito della sposa, che poi l'ha raccolto e me l'ha tirato. E io gli ho detto, meglio, sto bene da solo, senza mogli e senza buoi, e se me libero pure dei paesi tuoi, sto a cavallo. E se me gira, faccio fuori pure il cavallo. Tanto vado a vino, mica a cavallo. So al buco nero del dente cascato al sorriso della fortuna. E la cosa più sfortunata e pericolosa che mi è capitata nella vita è la vita. Che una volta che nasci, giri, conosci, intrallazzi, ma dalla vita vivo non ne esci. Uno solo ce l'ha fatta, ma era raccomandato. Io invece non c'ho nessuno che mi spigne. Meglio, se sa mai, visti i tempi. Ma se rinasco, me voglio rincarnare in me stesso, con la promessa di farmi fa più sesso. E prego lo Spirito Santo del vino d'annata, de mette ma venne i fiori per la strada, che voglio regalare una rosa a tutte le donne che non me l'hanno data, come a ditti, che na so fa una serenata. E brindo a chi è come me, al bar della rabbia, o della rabbia. E più bevo e più sete mi viene, sti bicchieri sono pieni di sabbia. Ma mo che viene sera e c'è il tramonto, io non mi guardo indietro, guardo il vento. Quattro ragazzini hanno fatto un'astronave con un po' di spazzatura, vicino ai secchioni, sotto alle mura dove dietro non si vede e c'è un'aria scura scura. Ma guardate con quanta cura se fanno la fantasia di st'avventura. Mi mozzico le labbra, mi cullo, che mi tremano le gambe di paura. Poi mi fermo e penso, però, che bella sta bella fregatura. E brindo a chi è come me, arba della rabbia, e più bevo e più sete mi viene, sti bicchieri sono pieni di sabbia. Ci ricordiamo poi di quel signore che è da 10 anni in vacanza in ambasciata, come si chiama? Julian. Julian, si chiama Julian, no? E aveva pubblicato un po' di cosine e noi avevamo iniziato a leggervela la puntata scorsa, un'infarinatura. Ricordo, sì. E pensavamo di fare giunta di infarinatura, giusto per concludere, insomma, sapere un po' cosa questo signore che vive in vacanza in ambasciata, cosa cavolo ha pubblicato. Parte 2. Una vacanza. Mm-hmm. Allora, uno dei documenti più potenti riguarda l'invasione dell'Iraq, che ha causato almeno 600.000 morti civili. La guerra aveva generato una fortissima opposizione in tutto il mondo, ma l'Italia, guidata dal governo Berlusconi, aveva rotto l'isolamento e garantito il suo appoggio nonostante l'opinione pubblica fosse visceralmente contraria e nonostante l'articolo 11 della nostra Costituzione, che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Il governo italiano ha fatto la scelta strategica di mantenere la sua politica allineata agli Stati Uniti e vi ha tenuto fede nonostante l'intensa pressione politica interna finché desistesse, scriveva l'ambasciatore americano Sembler. Quando il presidente Ciampi sembrava sul punto di sollevare dei dubbi sulla legittimità costituzionale del dispiegamento della 173esima brigata aviotrasportata dell'esercito degli Stati Uniti, direttamente sul suolo italiano, il governo ha elaborato delle tattiche con noi per affrontare le sue preoccupazioni. Il supporto logistico alle forze armate americane è stato eccezionale. Abbiamo ottenuto tutto quello che abbiamo chiesto, si spiegava Sembler. Aieie. Un aspetto dalle cose. Allora, Esperimenti Uniti d'America, questo era il testo degli Affluente a tema. Sì, gruppo tra Ascoli e Teramo, più o meno da quelle parti lì. In relazione, allora, c'è una serata un po' punk hardcore anche stasera, ora praticamente, però iniziano sempre un po' in ritardo, quindi se prendete le chiavi del lucchetto della bici e andate subito. Quindi oggi era 21, 22, non mi ricordo, concerto in Gorizia, Aieie, Milano, d'Arsena, gruppo da Nottingham, quindi qui diciamo che fuoriusciamo un po' dall'italianità. Vabbè, però è una serata. Però insomma, è una cosa... Non è la nostra trasmissione, è una serata, via. Siamo così razzisti. Razzelli, no, è vero, poi razzanti. Diciamo che il gruppo merita in quanto c'è qualche membro dei Verruckers, storica punk band inglese, insomma. Anni 80. Quindi lì poi c'è anche un gruppo dalle Marche, appunto ricollegandoci un po' dell'Adriatico, affluente. Degli affluenti, sì, gli Obscene Revenge. Quindi niente, volevamo dirvi questo, ve l'abbiamo detto. Possiamo restare, visto che il concerto è a Milano, mettiamo un gruppo che era di Milano, forse ancora lo è. Non lo so se lo ancora, abbiamo nella questo fascia. CD in casa, quindi dalle parti, registrato in Torchiera questo, se non sbaglio. Autoproduzione. Ierinez. Con la corte. Una cerniera che mi ho detto 100 volte una preghiera, ho maledetto un'auto nera, la luce blu sulla pantera, la luce blu sulla pantera, la luce blu sulla pantera, la luce blu sulla pantera. Sei preoccupato per l'ambiente ma non vuoi rinunciare al tuo telefonino per rimanere connesso con i tuoi cari? Prova il nuovo Ecophone Verde della Fast Plus. Ecophone Verde della Fast Plus telefona come gli altri telefonini, manda SMS, naviga su internet e scarica le email come gli altri telefonini, ha la scocca in plastica e le batterie a litio come gli altri telefonini, anzi è uguale in tutto e per tutto agli altri telefonini. Ma se ami l'ambiente, compra il nuovo Ecophone Verde della Fast Plus, l'unico telefonino uguale agli altri telefonini ma con l'ecologica confezione verde. Ecophone Verde della Fast Plus. Era Milano da pippare dell'Estan Zero. L'Estan Zero. Zero, sì. Zero. Zero, zero, in italiano si dice zero. Tu hai letto giusto. In italiano letto è giusto. Zero, cazzo, zero. E questi invece sono i treni all'alba. Diciamo un triplo carpiato all'indietro. L'arte della guerra dalla Val d'Aosta. Urca. Strumentale. Pausa sigaretta. O pausa birra. signore e signori, e qua si conclude l'avventura dei signori Buonaventura. Belluno e Nettuno vi hanno accompagnato e vi salutano, è stato bello. Che dire, prossimo mercoledì, come tutti i mercoledì? Facciamo, azzardiamo questo 8.35? Wow, qua ci stiamo allargando. È 8.35 perché... Di solito diventa 20.48, ma questo giro diciamo, cos'è che... E buttiamo 5 minuti in più perché c'è l'intenzione di essere alle 8.30, c'è. C'è, la volontà c'è. Poi i problemi tecnici, i problemi mentali, mental disorder, avanza tutto. Esatto, è un bel melting pot. Va bene, sesta puntata mercoledì prossimo. Aieie. 8:30, 8:40. E ci salutiamo con Gianfranco Manfredi. È Gianfranco. Ma chi ha detto che non c'è? Ma ve lo dirà lui. Un po' chi di ha detto poesia. Lui. Ciao. Allora. Sta nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra, sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino. Sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta, sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di memoria, sta nel nero della pelle, la festa collettiva, sta nel prendersi la merce, sta nel prendersi la mano, nel tirare i San Pietrini, nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui gipponi, sta nei sogni dei teppisti, e nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia più totale, nel discorso trasparente. Ma chi ha detto che non c'è? Detto che non c'è, sta nel fondo dei tuoi occhi, ma chi ha detto che non c'è, sulla punta delle labbra, ma chi ha detto che non c'è, sta nel mitra lucidato, ma chi ha detto che non c'è, nella fine dello stato, ma chi ha detto che